Sto fumando kush e giuro nient'altro. Sto pensando a te e giuro a nessun'altra. Sto con la gang gang e stiamo in pole position McLaren. Lei mi chiama sempre beh chiaro. Sto facendo blim blim come un faro. Ho cash tra le mani, troia vuole fottere i miei piani. Porta cena fuori, sai che le spezzo il cuore. Amore, guarda il mio polso, puoi chiamarmi il re sole. Prendi il C37 così freddo. Cuore un mascherante febbre. Sai che è un flap, soffri sempre che lascia le culotte sopra il suo bussette. Ad un po' per le offerte è un culo sorprendente, sono il suo sorvegliante. Troia intona il suo amore coi cazzi miei. Sto fumando, non le dico il vestito che abbinerei. Giro per Como, mi ferma mamma e bambini. Le mamme dicevano star come i loro bambini. Da bambino ma sto fumando kush e giuro nient'altro. Sto pensando a te e giuro a nessun'altra. Sto con la gang gang e stiamo in pole position McLaren. Lei mi chiama sempre beh chiaro. Non ti porto fuori, non ti porto fiori. Non ricordo i nomi, non li conti money. Per me è metà d'oro come Pericle. La spingo sul suo Chevrolet così forte che ha perdite. Caduto dal cielo come una meteora. Siamo pieni di sassi come a Matera. Sono pieni di cazzo e zero problemi. Non devo più rubare tra sti marciapiedi. 2016 chino la testa e praga. Vero come questo sangue non è chiaccia. Vero come è vero che ne fame per sempre. Facciamo piovere chiaccia, tiro fuori l'ombrello. Stiamo nella città, è stato l'allerta. Scopo la tua tipa se nessuno è perfetto. I soldi volano via come il vento. Pacchi in cucina con gli elettrodomestici. Aumento di peso, non vado in palestra. Stiamo sul campo come pallacanestro. Sta fumando cuscia e nient'altro. Sto pensando a lei e nessun'altra.